Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. È finito così, con una telefonata al 911, l'incubo di Amanda Berry. Aveva appena 16 anni quando venne rapita il 21 aprile del 2003, mentre passeggiava nei pressi di un fast food di Cleveland, in Ohio, segregata per 10 lunghi anni all'interno di una casa in un quartiere residenziale. Dopo 10 anni, tre ragazze rapite sono tornate in libertà e l'America si commuove, ma si chiede anche come abbia potuto accadere che nessuno se ne fosse accorto, che nessuno abbia pensato che le tre rapite in momenti diversi potessero essere insieme. Amanda, Michelle, Gina avevano 16, 20 e 14 anni quando furono rapite, due nel 2003, una nel 2004. Da allora non se ne è saputo più nulla, le famiglie avevano perso la speranza, la polizia forse aveva smesso di interessarsene, ma erano sempre rimaste lì a Cleveland. Il capo della polizia locale ha detto che l'inchiesta non è mai stata abbandonata, ma ammette che non c'era nessun elemento, nessun indizio. Trovare queste tre ragazze in vita per il Dipartimento di Polizia, ci riempie di entusiasmo. Per fortuna, e dico per fortuna, grazie alle azioni... Nel clamore di questa notizia che riempie le pagine giornali di oggi, non c'è però una sorpresa. Non è la prima volta che accade. Io lo sento come uno dei più agghiaccianti luoghi comuni di tutta una certa narrazione dell'orrore. C'è il mostro che tiene prigioniera, di solito una donna, dentro casa sua, la tiene in uno sgabuzzino, la tiene in un luogo riservato e segreto, la tiene incatenata, l'abusa, la tortura, si stabilisce tra il mostro e la vittima poi un particolarissimo legame. Un legame può durare anni. Questo fa parte sia dei film più trash, l'ultimo film dei Manetti Brothers racconta proprio la storia di questa, di un impeccabile signore che tiene una ragazza incatenata nel suo scantinato, poi questa ragazza una volta liberata si rivolterà contro gli stessi liberatori perché in fondo aveva un rapporto di legame affettivo con il mostro, la teneva incatenata nello sgabuzzino. Ma anche la saga Millennium di Stieg Larsson racconta di impeccabili signori della alta borghesia svedese che però hanno nelle loro nitide e perfette casette un luogo inaccessibile dove c'è una perfetta stanza di prigionia e di tortura. Esiste evidentemente una profonda radicata patologia che viene raccontata attraverso la fiction, ma che spesso diventa materia di racconto di cronaca, per cui alcuni esseri umani a un certo punto della loro vita stabiliscono di prendere in cura e in capacità di usarlo come uno schiavo, come un oggetto, un altro essere umano. E cosa accade nel frattempo fra queste persone? Più grande e forse più sicura. Nel giorno del suo 25esimo compleanno, Natasha Kampusch si leva il peso di una vita. In un'intervista a una TV tedesca, rivela al mondo anche quell'ultimo tassello della sua prigionia, quello che tutti intuivano, ma che lei aveva sempre negato. Sì, esattamente, ho avuto rapporti con Prikopil e adesso voglio essere lasciata in pace. Prikopil è il suo sequestratore e la sua storia, una delle più drammatiche di tutti i tempi. Rapita mentre andava a scuola, 10 anni, nel 98, tenuta prigioniera in uno scantinato di pochissimi metri quadri, con la porta blindata, 8 anni e mezzo là sotto, prima di riuscire a liberarsi nel 2006. Un orrore che prima è diventato una biografia, ora un film, dal titolo 3096 giorni, tanti quanti quelli passati con il suo aguzzino. Un rapporto inevitabilmente malato, quello di Natasha con il suo carnefice, il film come una liberazione, per mostrare anche la complessa relazione con Prikopil, di odio sicuramente, ma anche di dipendenza. Lui la portava a fare shopping, una volta erano andati insieme persino a sciare, ma allora perché non era riuscita a scappare? Avevo paura, ha spiegato, la mia era una prigione intima. Cosa accade in quel buco infernale del microcosmo costruito come scatola per contenere il giocattolo, il criceto in gabbia, Don Aguzzino? E cosa accade a una vittima che, come Natasha Kampusch, è stata dall'88 al 2006 chiusa in totale balia di un'altra persona? Avendo possibilità di uscirne, di ribellarsi, la portava a sciare, la portava a fare shopping, ma non l'ha mai fatto. Ma non è il solo caso, ci sono tanti di casi simili. Colpo di scena alla terza giornata del processo a Josef Fritzl, il padre mostro che ha segregato e violentato sua figlia Elisabeth per 24 anni in una cella sottoterra ad Amstetten. In apertura dell'udienza Fritzl si è riconosciuto colpevole in tutti i punti, inclusi omicidio colposo di un figlio dell'incesto che si era rifiutato di portare in ospedale e di riduzione in schiavitù. Finora aveva ammesso i reati meno gravi, stupro, incesto, segregazione. A fargli cambiare idea è stata la videotestimonianza della figlia, 11 ore in cui la vittima ha raccontato il martirio subito durante 24 anni. Secondo il quotidiano Courier di oggi, Elisabeth avrebbe in parte seguito in aula l'udienza per raccogliere impressioni e vedere le reazioni del ancora padre più complicato e tenebroso il caso Fritzl, dove si consuma un pluriennale incesto di un padre con la figlia. Sì, perché molte volte è chiaro, è logico, è lampante quando sono uomini a sequestrare donne che diventano anche schiave sessuali, e c'è una reiterata casistica in cui poi l'esito di questa violenza si traduce in dei bambini che nascono e molte volte vengono soppressi, o in altri casi accade diversamente. Beh, 800240024, quanto siete colpiti nel vostro profondo da questa idea della possibilità che qualcuno vi prenda, vi sequestri e vi tenga un tempo infinito in sua balia? Cosa ne pensate? Com'è possibile che queste cose possano accadere? Sempre in tranquillissime province, sono sempre villette, in questo caso è una ridente villetta di legno, sembra quelle proprio dei film e dei telefilm della provincia americana. Possibile che nessuno si sia mai accorto che lì per 10 anni c'erano 3 donne rinchiuse? 800240024. Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Vincenzo Mastronardi è psichiatra, criminologo, titolare della cattedra di psicopatologia forense presso la prima facoltà di medicina all'Università di Roma La Sapienza. Ha scritto vari libri sui serial killer, sulle madri che uccidono, sulle sette sataniche. Oggi lo convochiamo su questo dilemma. Vincenzo, come è possibile secondo te che possa accadere, possa stabilirsi un rapporto così difficile, intricato e tenebroso fra una vittima e un carnefice, addirittura da sfuggire alle occasioni di liberarsi nel corso di decenni? Sì, ovviamente è chiamata sindrome di Stoccolma. Di Stoccolma perché a Stoccolma avvenne in una banca una rapina in cui 3 sequestratori entrarono peraltro a volto coperto e una cassiera che non aveva mai lasciato pensare alcunché di sé si innamora pazzamente del capo rapinatore, esplode una love bomb eccezionale, a questo punto una passione più unica che rara, e immediatamente scattano le informazioni. Ma cos'era? Una bassista? Cosa poteva essere? Forse una persona comunque addentro alla banda? Assolutamente no, niente, casa, lavoro, chiesa, una persona timorata di Dio che a un certo punto si è chiarito, non sapendo quale sindrome, quale diagnosi fare in questa strana fenomenologia, la si è chiamata col nome della città dove è avvenuta la relazione affettiva tra rapinatore e rapinato, e cioè una enorme paura così intensa di essere in imminente pericolo di vita che devo assolutamente umanizzare il mio aggressore ai miei stessi occhi, perché se lo amo non posso temere nulla, lo amo e quindi lui non può farmi nulla di male. Tanto per intenderci, perché forse per chi non ha vissuto questo tipo di situazione, anche indirettamente naturalmente, è un po' difficile capire ciò che accade a tutti quanti noi quando incontriamo un cane che ci ringhia contro e realizziamo in frazioni di attimo che possiamo o aggredirlo, ma non ci conviene, realizziamo che se un Rottweiler è più svelto di noi, è più aggressivo di noi e sa dove azzannare, se scappiamo è più agile di noi, già visualizziamo il polpaccio mangiato. A questo punto abbiamo solo una possibilità, è quella di simpatizzare con lui. Però quando cominciamo a fare bello bello bello, no, no? Il famoso atteggiamento che serve per umanizzare un momentino anche l'animale che abbiamo di fronte a noi. A un certo punto ci rendiamo conto che lui non si lascia gabbare, e allora dobbiamo essere ancora più sinceri e riuscire a comunicare con noi stessi, fra noi e noi stessi: ma come? Ma io veramente, io amo i cani, ma come, avevo un cane, ho un cane a casa, i cani sono parte di me, della mia vita, bello, ecco, quel bello convinto fa tutto il suo miracolo, perché il cane aggressivo riesce così a muovere la coda e non ci muove e non ci nuoce. Sì, ma in questo caso però il cane in questione nuoce nel corso di anni. In questo caso nuoce, però i danni emozionali e psicofisici vanno a diminuire a questo punto, nel momento, verso i nostri stessi occhi, se fossimo sequestrati. È capitato si ventila per il caso Moro, è capitato si ventila per altri sequestratori. Ma in Italia se ne parlò molto al tempo dei grandi sequestri di persona. Esatto, se ne parlava tantissimo, ricordi, adesso non voglio citare i casi, non voglio avere strascico. In Sardegna, esempio, sì. Ecco, esatto. E quindi questo i giovani sequestrate che non si capiva, non si sapeva bene se poi in realtà avessero stabilito rapporti profondi, affettivi, amorosi. Ecco, per riuscire a sopravvivere, proprio per riuscire a sopravvivere alla propria paura, alla propria emozionalità, bisogna umanizzare il proprio... Invece proprio da un punto di vista criminologico, chi compie questo tipo di azione? Che è l'azione che presenta un più vasto repertorio di trattamento cinematografico? Quanti ne abbiamo visti di mostri impeccabili che con l'impermeabile, la cravatta, la giacca hanno una vita normale, poi tornano a casa e aprono lo stanzino degli orrori, dove c'è la vittima macilenta che o se ne tagliano un pezzo al giorno, se ne mangiano un pezzo al giorno, o la sottopongono alle più sottili torture, o semplicemente allucinano un rapporto amoroso con un parente scomparso, con un figlio morto, con una moglie scappata e via dicendo. Cos'è che muove la mente di questi? In questo caso erano tre persone, saranno prese tre donne, saranno messe in casa delle donne perfettamente allineate al desiderio più sublime del maschio torturatore possessore. Tre donne, tre schiave a loro disposizione, ecco. Ecco, rispondo subito. In questi casi abbiamo visto, esaminando i casi più noti, che realmente non si sentono all'altezza, ma non lo confessano neanche a se stessi, all'altezza delle competenze di seduzione relazionale, cioè c'è un'autostima sì, ma un narcisismo non cimentato con il normale con le normali capacità di relazionarsi con la donna, cioè la devo catturare per sentirla mia. Pronto? E poi ci fanno anche, sì, dei figli, ecco. La cosa più singolare, sì, questo sì. Desiderio anche di procreare, non è soltanto un giocattolo, una schiava sessuale, ma essere anche madre, quindi devono allucinare e ricostruire tutta una gamma di possibilità di relazione di cui loro sono totalmente impotenti a realizzarla. Esatto, come se fosse una res propria, cioè una cosa propria, ormai è mia, posso farne tutto ciò che voglio, tutto ciò che desidero. Quello che poteva essere valido all'epoca delle caverne, naturalmente, ma poi nella evoluzione proprio intrapsichica, nella soddisfazione sempre più evoluta dell'uomo, quando l'uomo si è poi reso conto che in realtà la soddisfazione non era nel possedere l'altro, ma la soddisfazione migliore era nel riuscire a conquistare sotto tutti i punti di vista l'altro, quando l'altro aderisce poi dopo con il piacere di aderire altruisticamente all'altro e non già se l'altro appunto pronto, sì, sì. Sentite? Certo, sì, sentiamo. E non già possedendo l'altro con la forza bruta, ma quando l'altro appunto riesce a desiderare sua sponte di aderire, spontaneamente di aderire, lì è il massimo della reale conquista personale. Molte persone non si sentono all'altezza di ciò, ma non osano dirlo a se stessi. Ecco, do subito ragione di qualche messaggio che mi dà il polso di come è sentita questa vicenda nell'emotività degli ascoltatori. Molti si rifanno a casi di cronaca trattati, stratrattati alla televisione, come la piccola Denise, Angela Cellentano, la paura che chi ha dei bambini che possano finire, secondo l'antico e più ritualizzato racconto si fa ai bambini che qualche orco li porti via, e l'orco quando porta via non sempre se li mangia subito, ma molte volte potrebbe centellinare il suo pasto, come in questo caso, per anni. Mi viene ricordato da un'altra ascoltatrice un film fantastico, Amabili Resti, di Peter Jackson, un film anche questo bellissimo, è tutto visto in prospettiva di una ragazza che non ha pace perché qualcuno ha fatto un altro killer seriale, ha fatto lei questo, l'ha presa, l'ha sequestrata, l'ha uccisa e l'ha nascosta, e lei non ha pace finché qualcuno non ritroverà i suoi resti. Un altro spunto è quello che mi dà un'ascoltatrice, sul quale vorrei interrogare il pubblico, 800240024. Molte donne regolarmente sposate, picchiate per decenni, che non lasciano il marito, sono accomunabili a questa casistica. Ecco, esiste una forma più blanda, meno drammaticamente legata a un fatto eclatante, di sequestri di persona volontariamente accettati per lo stesso meccanismo che ci diceva il professor Mastronardi? Quanto vi sentite sequestrate? Vi siete sentite sequestrate in casa vostra? In realtà potevate uscire tranquillamente, avevate un uomo che comunque vi vessava, vi picchiava, vi maltrattava, non eravate incatenate, ma c'era una catena molto più profonda. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il punto fondamentale è che il nostro cervello si è evoluto durante la preistoria, quindi noi siamo dei poveri disgraziati che dispongono di un cervello preistorico con il quale cercano di relazionarsi ad un mondo. Di adattarlo alla contemporaneità, questo è il nostro problema. Sì, se la preistoria è lunga un metro, tutto quello che c'è dopo è uno sbaffo di penna biro dopo, e durante la preistoria che si è evoluto il nostro cervello. E così è rimasto più o meno. E così è rimasto, tutto quello che c'è sopra sono sovrastrutture, quindi il punto fondamentale non è chiederci come mai ci siano gli stupri e i rapimenti, ma congratularci con noi stessi per il fatto che ce ne sono così pochi. Lo stupro etnico, mi procuro più donne e la tengo incatenata, è la mia schiava, è stata la norma in epoca preistorica e post preistorica. Che fine fa la moglie di Ettore? Diventa la schiava di quelli che gli hanno ammazzato il marito e il figlio. Noi studiamo sui libri di storia la storia dell'impero romano, non la storia dell'impero sabino. Chi ha avuto le donne ha avuto più figli ed è sopravvissuto. In questo momento c'è una percentuale folle, dal 5%, non mi ricordo esattamente, di persone che vivono nell'Asia orientale che hanno geni in comune, perché sono tutti discendenti delle donne stuprate da Gengis Khan. Se uno fosse andato da Gengis Khan e dai suoi, dice, guardate che lo stupro è mica una bella roba, questi ti fissati, ma questo ha battuto la testa. Beh, è un'arma tipica di ogni guerra di conquista, lo stupro. Esatto. Sia delle donne, ma sia anche degli uomini sconfitti. E degli uomini e dei bambini. Assolutamente sì. Io mi permetto di leggere un pezzo del libro La storia del signore della conquista di Tansur Berkemal, che parla, è un contemporaneo, della presa di Costantinopoli da parte di Maometto II. Questo è il libro ufficiale su cui i bambini turchi studiano la storia. Quando per il favore divino la fortezza fu espugnata, il nemico perdette ogni forza e fu incapace di reagire. Il popolo fedele, cioè i turchi, non incontrò più ostacoli e pose mano al saccheggio in piena sicurezza. E vai. Si potrebbe dire che la vista della possibilità di poter fare bottino di ragazzi e di belle donne devastasse i loro cuori e i loro animi, trassero fuori da tutti i palazzi che uguagliavano il palazzo di Salomone, e questi venivano al centro dell'Asia, un po' Cafoncelli, e quelli erano Costantinopoli, e si avvicinavano alla sfera del cielo, trassero nelle strade strappando le letti d'oro, delle tende tempestate di pietre preziose, le beltà greche, franche, russe, ungheresi, cinesi, cioè in breve, le belle dei morbidi capelli uguali alle chiome degli idoli, appartenenti alle razze più diverse, e i giovinetti che suscitavano turbamenti incontri paradisiaci, punto. Dunque, torniamo a noi. Lo stupro è permesso anche in epoca preistorica, sempre con quelli di fuori della tribù, all'interno della tribù dovrebbe essere vietato. La mia tribù, quindi, il posto di cui io riconosco i segni di affiliazione al gruppo, che possono essere le scarpe di vernice o le perline Masai, e soprattutto il linguaggio, è il luogo dove sono decentemente garantita che non mi violentano. La religione ebraica e quella cristiana vietano anche lo stupro etnico. Tu non desiderare la donna degli altri, non solo non la puoi stuprare, ma non puoi neanche desiderarla. Infatti per questo i liberatori, quando passarono alle parti di Cassino, lo stupro di massa sulle donne lo fecero fare dai Goumier, che erano tunisini e senegalesi, truppe coloniali francesi, non lo fecero infatti loro. Anche perché l'Islam non riconosce questo comandamento. noi nell'Islam abbiamo nella Sura 4 verso 24: e vi sono vietate le mogli sposate di altri popoli a meno che non siano cadute nelle vostre mani come prigionieri di guerra. Quindi quei soldati marocchini non hanno violato nessuna loro regola. Torniamo a noi. I due stupri che sono stati ricordati sono completamente diversi l'uno dall'altro. Allora, scusa Silvana, fermiamoci un attimo, diamo le informazioni della borsa che è l'ora e poi riprendiamo l'analisi sui fatti di cronaca. Abbiamo fatto una fantastica digressione storica, abbiamo visto che in realtà lo stupro come arma di sopraffazione è collettivamente praticato in tutti i tempi, tuttora praticato. Quando diventa un'attività casalinga, singola e ritualizzata alla stessa maniera, entra nelle cronache dei giornali, ma solo quando viene scoperto. Quanti ce ne avverranno probabilmente che noi non sappiamo, quante forme più blande rispetto a questi casi di cronaca di vessazioni domestiche quotidiane che somigliano molto a casi di prigionia, di donne messe in prigionia. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, siamo partiti dalla notizia di cronaca delle tre donne di Cleveland sequestrate per 10 anni da loro aguzzini che l'hanno tenute nascoste in una ridente villetta dell'Ohio senza che nessuno se ne accorgesse. Siamo scesi indietro in tutti gli episodi simili di cronaca, siamo arrivati a valutare che in realtà esiste, secondo la scrittrice di fantasy Silvana De Mari, una sorta di reminiscenza nella nostra capacità di percepire i rapporti tra uomo e donna, che è molto arcaica, che fa sì che la sopraffazione sia il sistema di possesso più radicale. Poi civilizzandosi siamo riusciti a contenere questa cosa, ma quando riemerge, riemerge con casi come questi. I più efferrati sono quelli che raccontano le cronache, molto più diluiti ma non meno terribili, probabilmente si vivono in tante case, in tante famiglie, ma non se ne parla molto. Rosemary, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Buongiorno, io sono molto emozionata e sono una vostra ammiratrice. Ascoltate un aneddoto di quando ero ragazza che frequentavo le elementari, no? C'era sempre un ragazzo che veniva sempre dietro a me, mi picchiava. Mi ossessionava, mi aspettava sempre dalla scuola, dalla casa, e non lo so, sempre con una mazza andava. Arrivato a un certo punto, l'ho detto ai miei genitori, non c'era niente da fare. Cioè questo girava con la mazza, l'aspettava fuori della scuola e l'ammazzava. Sì. Arrivato a un certo punto ho studiato bene la cosa. Ma quanti anni avevate? Cioè, avevo 12 anni, 11 anni. Arrivato a un certo punto ho cominciato a fargli dei complimenti. Ho cominciato a lusingarlo, ho cominciato a come sei bello, invece era brutto un accidente, no? E questo sempre con la mazza in mano. Sì, arrivato a un certo punto succede una cosa strana. Lui si emoziona e così comincia a innamorare di me. E anche lui mi fa dei complimenti, mi aspetta all'uscita della scuola. Ma continuava a mazzolarla nonostante questo o aveva, diciamo, sospeso? No, aveva cambiato proprio atteggiamento, proprio. Non portava più la mazza, andava tranquillo? No, aveva cambiato completamente atteggiamento. Io ho notato questo nella mia vita, anche con le persone. No, com'è finita poi la storia d'amore col suo aguzzino? È finita la storia, non è successo la storia d'amore, perché a me non piaceva. Lui poi è arrivato a un certo punto che si è stancato di me, no? E non mi, praticamente poi mi salutava, mi dava il bacetto, tutto. Vabbè, qua. Si vede che funzionava finché lei scappava, era terrorizzata. Ecco, io sono d'accordo col professore Mastronave che la psicologia degli uomini è molto particolare. Anche con mio marito faccio così, Ma perché suo marito pure ogni tanto gli dà sotto. No, praticamente quando mi si arrabbia o che litighiamo, allora picchia. No, ma sia signore. Arrivato a un certo punto io mi sto zitta, il silenzio vale più di ogni cosa. Dopo tanti anni ormai ho capito. E magari dico che si fa questa cosa che ne dici tu e tutto va bene. Vabbè, se l'ascoltano altre sue colleghe, la vengono a cercare a casa, che il silenzio e l'accondiscendere sia... Sì, vabbè, nasce per fare la vittima, lei se pensa così. Che No, sono soprattutto vittima, io parlo, anzi, io mi so difendere da me stessa, io ho subito molti tipi di violenza nella mia vita, tipi delle piccole violenze, ma non delle grosse cose che irrecuperabili. Vabbè, si rimetta, è recuperabile, Rosemary. Roberto. Pronto? Sì. Buongiorno, io volevo fare una sorta di provocazione, proporre due spunti di riflessione, premesso che questi fatti sono ingiustificabili ovviamente, questi sono malvagi, malati e quant'altro, e si sentono forse legittimati da quello che è l'atteggiamento in generale dell'uomo di poter disporre spesso e volentieri delle donne in qualunque momento. E dove accade questo secondo lei? Ma generalmente sempre e ovunque, forse queste sono la punta dell'iceberg, sono situazioni tragiche, però secondo me situazioni più blande, più soft, diciamo così, accadono comunemente. Io sento sempre di donne, amiche, conoscenti che si lamentano delle loro relazioni in cui sono insoddisfatte, infelici, a volte vengono maltrattate e nonostante tutto rimangono lì, e questo è il primo spunto. E mi chiedo, spesso le donne hanno questa idea della relazione comunque, sto male e rimango lì. Primo aspetto, per quale motivo questo deve accadere? Secondo aspetto, questo spirito della croce rossina, l'idea che io posso cambiarlo, posso migliorare, ma non è così in fondo, e questo finisce per legittimare forse un atteggiamento, ripeto, ingiustificabile, malsano, malato di molti uomini a ritenere sempre di poter continuare in atteggiamenti non corretti da questo punto di vista. Sì, l'io ti salverò, l'io ti salverò è stata la formula di tutta una serie di libri che parlavano soprattutto di donne che stavano con uomini alcolisti, maltrattate, picchiate, ma nonostante questo sempre con questa idea che lui potrà cambiare. Ne abbiamo parlato più volte, alla base di un rapporto di violenza domestica c'è sempre questo, sempre una donna che pensa che l'uomo potrà cambiare, l'uomo poi dà segnali di cambiamento, poi magari la volta dopo ricomincia sotto. Andrea. Sì, Gianluca, ciao. Se consideriamo appunto che l'animale uomo è quella bestia che ha perso l'istinto che degli animali invece tutela il sesso femminile, però se guardiamo un momento anche il mondo del porno, mi capita come tutti gli uomini di guardare ogni tanto qualche pornacchione, ormai va di moda la gangbang, cioè praticamente una donna con 10, 15, 20, ma è un'altra cosa, scusi, visto che lei è tanto esperto, la gangbang è tutto un altro genere, se vogliamo entrare in quel settore. Ma scusa, volevo dire questo. Qua è un rapporto... È logico che l'uomo trova eccitazione in tutto quello che è esasperato e la sua cattiveria esplode. Io penso che in natura sarebbe l'ideale, ed è una battuta, ma sarebbe l'ideale, che la natura femminile, la vagina, venisse dotata di denti. Sarebbe veramente il meglio e il bene per la donna. Sì, è un paradosso, è uno degli incubi più ricorrenti da chi ha patologie di paura, di terrore per le donne. In realtà è un frutto dell'immaginario, lei se lo augura, evidentemente ha desiderio di essere addentato, ognuno poi ha le sue predilezioni. Non è molto calzante il suo esempio, voleva essere estremo, perché lei parla di un altro tipo di parafilia, se vogliamo, rispetto a quella di avere il possesso totale sadico su una persona. Professor Vincenzo Mastronardi, vediamo di riportarlo nel campo criminologico. Le è mai capitato lei di avere colloqui o di avere possibilità di analizzare alcuni criminali con questo tipo di attività, di tendenze, desiderio di tenere persone schiave, di sequestrare persone o di avere un rapporto così vessatorio e sadico nei confronti di una persona? Sì, ricordavo mentre si parlava prima appunto tra i vari casi che ho esaminato e a livello assistenziale e peritale, una perizia che mi fu affidata appunto in cui c'erano due donne segregate in una camera da letto da parte di un guru o un ipotetico guru che si professava tale, in un appartamento in cui neanche il figlio aveva visto chi abitava in quella camera da letto lì, in un appartamento di abbastanza grande, credo di 220 metri quadrati, insomma, tanto per intenderci, per visualizzare un attimo lo scenario. E quest'uomo qui, con le sue arti magiche, chitarra eccetera, aveva incantato appunto tutta una serie di adepti che erano lì con lui, attirati appunto per necessità intrinseche proprie, cioè tutti quanti, ma credo nessuno escluso, non ho visitato gli altri, ne ho visitati solo due, non ho visitato gli altri, ma credo che tutti quanti, nessuno escluso, avessero comunque dei vuoti emozionali o esistenziali da riempire, e quest'uomo era andato così a sostituirsi ad ognuno, e era andato a colmare per ognuno i propri vuoti. Ecco, La cosa che colpisce in questo esempio, ma così come in altri esempi abbastanza comune, è che la madre tentò poi dopo un certo punto, la madre di una delle due ragazze che coabitava appunto in camera da letto con il guru, tentò in qualche modo il padre pure di fare in modo che rinsavisse, che riuscisse a ripensare un momentino alle sue ottiche esistenziali più funzionali per lei, ma non ci fu nulla da fare per parecchio tempo, nel senso che la ragazza aveva come la sensazione che fosse completamente ricolma di sensazioni belle con quest'uomo qui. Ecco. Quindi alla fine è chiaro che si stabilisce, professore, un rapporto di compensazione. Se non c'è un desiderio così forte, così vivace di uscire da quella situazione, alla fine ci si accomoda, diventa una forse istoriata di punte acuminate, ma una gabbia in cui ci si adatta alla fine. Velocemente, Marco, solo un secondo. Marco. Sì, una cosa semplice, siccome vi stavo ascoltando, io volevo dire che è vero che l'uomo per natura, vabbè, come avete già detto, è più possessivo, però è anche vero che ci sono anche molti casi di donne che sono estremamente possessive. Ce ne sia per tutti. E quindi con questo vuol dire che anche le donne, poi raramente di donne che sequestrano uomini se ne ha notizia, se non in un film fantastico che è L'incubo della mia vita, che è Misery non deve morire. È la mia paura più feroce, trovare un'ascoltatrice che mi vuole spezzare le ginocchia, tenermi immobilizzato a casa sua tutto il giorno. Melog, la realtà condivisa. 800240024. Mi sto rendendo conto questa mattina del fatto che questo sia un argomento incommensurabile, non è misurabile dall'emotività individuale di chi non ha vissuto di persona una situazione del genere, se ne legge con orrore sui giornali, si tende a assimilare ciò che si legge sui giornali, probabilmente banalizzandolo, ma è un'operazione che si fa di autoassolvimento dal senso di responsabilità, dal terrore, a quegli episodi simili che noi vediamo nei film. Spesso si vede nei film della stanza degli orrori, Hostel è una serie di telefilm in cui addirittura veniva fornito un servizio a impeccabili signori di avere a disposizione delle celle dotate di tutte le strumentazioni per torturare, sequestrare, spezzettare, bruciacchiare persone venivano rapite, una impeccabile agenzia metteva a disposizione carcere e vittime per chi volesse esercitarsi in questo tipo di attività, gratificante probabilmente per chi ha questo tipo di tendenza, ma non riesce a fare il passo successivo di raccontarne, sviscerarne quella che è la forma più banalizzata e più comune, che è le fasi di sequestro, di prigionia domestica. Però su questo argomento noi torneremo venerdì c'è un congresso a Roma dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Famiglie e Violenze, Strumenti, Prevenzione e Tutela. Chiameremo il nostro amico avvocato Gassani, ci racconterà cosa risulta loro che hanno il termometro in mano dell'esplosione cruenta nelle famiglie italiane quando vanno appunto per separarsi, cosa c'è dietro il nitore e l'apparente regolarità delle famiglie italiane, lo vedremo se non c'è qualcosa di assimilabile alle gabbie e ai sequestri. Sara, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Senti, io volevo fare chiedere al professore, visto che lui sa tutto per la sua materia, che è la criminologia. Per la sua materia, sì, beh, naturale. Se si sa di casi di uomini che sono stati schiavizzati dalle donne, perché io non ne ho mai sentiti. E infatti penso che sia proprio, che dipenda proprio non dalla cultura maschile, ma dal carattere dell'uomo. Cioè, l'uomo sottomette, la donna invece no. Beh, diciamo che io dico la mia risposta, poi sentiamo il professor Mastronardi. Secondo me la donna, quando vuole schiavizzare un uomo, non ha bisogno di legarlo, di incatenarlo, di bruciarlo con la fiamma ossidica e tenerlo dentro. Ha delle maniere molto più sottili. Esiste una forma di schiavismo sugli uomini, conosco tanti uomini schiavi di donne, totalmente schiavi, ma è qualcosa che si riporta a quella che vuole essere una battuta del nostro ascoltatore, che viene riverberata, vedo tanti sms che mi citano, ma la conosco benissimo, la stranota osteria numero 20. Professor Mastronardi, rispetto a quello che dice la nostra ascoltatrice. Sì, Sara, tranquillizziamo Sara, nel senso che realmente non vi sono soltanto atteggiamenti in direzione uomo-donna, ma realmente anche donna-uomo, mi verrebbe da dire da femminista, quale io sono, che ben venga il riscatto della donna. Roberto, o meglio Gianluca, parlava prima di vagina dentata. A questo punto chiaramente, ecco, l'eccesso però storpe, voglio dire, fa sì, però nella casistica criminologica io non ricordo casi di donne che sequestrano uomini. Concludevo, non possiamo parlare di sequestro in questo caso, ma come dicevi tu prima, appunto, parlare invece di più raffinato sequestro. Infatti più intelligenti siamo, più raffinati siamo nel barare a noi stessi e nell'accettare in molti casi un sequestro molto più fine, molto più raffinato, quale quello emozionale che una donna può riuscire a determinare in chi non scappa, però in chi però non ha capacità di compensazione e non ha capacità poi dopo di strutturazione di nuove ottiche esistenziali. Vincenzo Bastardi, una domanda secca: le persone che compiono questo tipo di reato rientrano nel campo della psicopatologia, o in realtà, come dice Silvana De Marri, che adesso sentiremo, sono uomini normali come noi che a un certo punto abbassano il livello di controllo sulla loro parte animale? Dunque, l'uno e l'altro, ecco, io direi che malati mentali ne abbiamo molti, molto pochi, di persone che sequestrano e siano affetti da franca patologia di mente, quale quella che può compromettere la capacità di intendere e di volere. Abitualmente hanno disturbi di personalità, ma non disturbi di personalità inficiante. Quindi diciamo sono essere umani normali, come dice appunto Silvana De Marri. Silvana. Allora, le donne si innamorano degli uomini che li hanno violentate e sequestrate perché in epoca preistorica questo è l'unico meccanismo che mi garantisce la sopravvivenza. Le Sabine a un certo punto sono sopravvissute e quindi si instaura questo meccanismo anche quando non deve. Se l'uomo violento e aggressivo conserva dei suoi meccanismi ancestrali, preistorici però, quindi umani, addirittura negli animali noi abbiamo la gioia del torturare. Si chiama to mob in etologia, da cui il mobbing. È il gatto con la lucertola, cose del genere. Esatto, col l'atteggiamento passerotto. Che c'è nel branco, quando il branco è con le spalle al muro perché ha perso territorio, si coalizza e massacra uno del branco che poi si mangiano, quindi con i lupi, coyote, leone. In questa maniera, primo si mangia, recuperano proteine, secondo recuperano il senso della propria potenza, da qui il sacrificio umano. Se io sono frustrato sul dolore di un altro, riacquisto il senso della mia potenza. E questo mi sembra chiaro, allora un riacquistare la propria potenza, quindi nessuno è pazzo, ma sono semplicemente persone che non hanno altre maniere per sentirsi potenti. Ci sentiamo domani.